appunto, no, confermiamo che l'interdizione dei pubblici, dei pubblici uffici ce l'hanno tutti. Ora, ora facciamo un attimo un commento in attesa che Simonetta si liberi. Abbiamo un altro giornalista che ha seguito molto molto bene la storia genovese, che anche che sentiamo spesso per la radio, che è Cecchino Antonini, ecco, a cui appunto chiediamo un attimo, visto che lui si è segnato tutto quanto, a differenza nostra, gli chiediamo un commento, e quello che poi è di nuovo la sintesi di quella, di questa sentenza. Allora, con estrema sintesi possiamo dire che non faranno neanche un giorno di galera, ma molti di loro perderanno il posto, nel senso che anche tecnicamente, poi probabilmente ve lo potrà spiegare meglio un avvocato, soltanto un'acrobazia giuridica molto spregiudicata potrebbe evitare adesso l'interdizione dai pubblici uffici per tutti coloro che comandarono, coordinarono il massacro dentro la scuola Diaz, e anche per qualcuno che lo eseguì materialmente, come per esempio Canterini. Chi probabilmente resterà al suo posto sono i cosiddetti Canterini Boys, cioè i capi squadra, quelli che avevano la responsabilità materiale dei 400 poliziotti che fecero l'irruzione nella scuola dove dormivano alcuni dei manifestanti. Qui il colpo d'occhio è quello di Arnaldo Cestaro, il più anziano delle persone massacrate quella notte del 21 luglio del 2001 a Genova, che esprime tutta la sua soddisfazione parlando a voce alta di fronte alle telecamere proprio nell'ingresso principale del palazzaccio sede della Cassazione. Credo che sia una sentenza molto, molto importante, e che adesso tutto quanto si giocherà nella corsa alla successione di Manganelli al Viminale, perché potrebbe essere decapitata la Polizia di Stato, che da alcuni giorni a questa parte sta perdendo pubblicamente molti colpi e gran parte del suo prestigio. Invece la scarsissima presenza di pubblico e il fatto che c'erano soltanto alcune vittime della Diaz e pochissimi militanti, peraltro tutti media attivisti, invece testimonia di come davvero è cambiato il segno, è cambiata un'epoca da quel 2001 ad oggi. Vi ripasso il compagno, buon ascolto. Allora, rieccoci di nuovo in diretta, perché stiamo aspettando, vabbè, ovviamente ci sono alcune scene di gioia da parte delle parti civili, che oggettivamente stanno festeggiando, magari vi arriva pure qualcosa in sottofondo. Sì, chi ha vissuto quella notte ovviamente è contento di come si è andata, anche perché probabilmente neanche speravano che andasse così, che sono un processo lunghissimo, quasi 8 anni, soprattutto per chi è stato costretto a tornare in Italia dall'estero. Non è stato assolutamente un esercizio semplice, le testimonianze d'aula così, è stata una sorta di liberazione. Ora qui potete immaginare che ci sono parecchie facce scure di persone in borghese che stanno anche guardando un po' in cagnesco, perché questo è il clima. Però giustamente, come anche ricordava Cecchino, la situazione è quella che è, non ci sono militanti, non ci sono compagni. Però ora abbiamo finalmente Simonetta si è liberata, che non ha bisogno di presentazione a Radio Onda Rossa, dunque te la passo e facciamo commentare anche a Simonetta questa sentenza. Buonasera, quindi abbiamo avuto una conferma quasi in toto della sentenza d'appello, che ha articolato moltissimo le ragioni per cui devono essere condannati i poliziotti e i loro dirigenti, anche Gratteri e anche altri sono stati condannati e andranno fuori dai corpi della polizia, perché c'è l'interdizione dei pubblici uffici. Quindi ci troviamo di fronte a una sentenza che non ha potuto far altro che confermare, perché era ampiamente motivata la sentenza di Corte d'Appello. Comporta che per i reati che non sono prescritti, cioè per il falso, che è rimasto condannato 3 anni, 4 anni, 5 anni, è interdetto dai pubblici uffici in quanto non può più stare in corpi statali e non può né essere eletto né eleggere. Positivo non ce l'abbiamo in mano, quello che abbiamo potuto prendere di appunti e ci dice questo, poi vedremo le piccole cose. Le parti civili che hanno fatto ricorso sono stati rigettati ugualmente, però non sono stati condannati alle spese del grado di giudizio, sono state compensate, mentre invece gli imputati hanno avuto anche la condanna alle spese e a risarcire tutte le parti civili. Anche lì dove i reati sono prescritti come le lesioni dovranno risarcire le parti civili, perché la decisione del risarcimento è stata prima dell'intervento della prescrizione. Allora, rieccoci. Senti, io qui abbiamo una delle facce che ovviamente sono contente, più che contente, diciamo, direi soddisfattissima per questa sentenza. Sono pochissime le facce, diciamo, soddisfatte, la maggior parte sono uomini in borghese con la faccia scura, però allora vi faccio parlare con Mina, che tra l'altro sfoggia una bellissima spilletta, tutto scritto I love Black Bloc. Dunque vi passo Mina, che è una fin dalla Spagna appunto per seguirsi questa sentenza. Stiamo ridendo, poi magari mi spieghiamo anche il perché. Ma è bello avere un momento di soddisfazione così come adesso, non è che si capisce tanto quando succede queste sentenze, ma dopo gli avvocati dei poliziotti sono tutti scappati, i nostri cominciavano a ridere, e sì, un momento di soddisfazione sapere che questi funzionari non faranno più questo lavoro. Cioè, no, speriamo infatti che vada anche così bene il 13 luglio, che anche lì sanno riconoscere che solo è stato che è stato danneggiamento e non devastazione. E adesso posso fare le valigie e andarmi al Val di Susa, tranquilla. Bravissima, grande. No, infatti appunto, ecco, bisogna ritrovare anche la forza, insomma. Io penso che tra l'altro la tua gioia è anche il fatto, l'altro giorno parlavamo con gli imputati, insomma, il fatto di riuscire a sentire che comunque intorno c'è ancora qualcosa e si ha ancora la voglia di andare poi a dire la propria, a battere i piedi là dove c'è bisogno, no? Appunto, tu stai partendo per la Val di Susa, sì. E quindi insomma sì, dopo, nel senso, tutto il percorso è stato molto difficile, lungo, amaro, logorante, immagino, sì. Tantissimo, ma dopo sì, di tempo in tempo succedono queste cose che devo dire nessuno se l'aspettava, e dunque sì, danno soddisfazione, un bel sorriso e tante risate da okay. qui. Va bene, ti abbraccio forte, grazie. Ciao. Ecco, no, invece vi abbiamo ritrovato subito, ecco qua, ci siamo di nuovo collegati. Allora, non so se vogliamo, se tu hai altre voci da farci sentire. Guarda, volendo sì, c'è qualcun altro da sentire, qui ho Sara, un'altra delle parti civili, c'ho anche Carlo Bacimet, ma magari se loro li va di commentare, e se ci va anche di continuare questa diretta, non c'è nessunissimo problema. Qui ovviamente, come dicevo, a commento il processo, quello là nostro, quello della settimana prossima, non è minimamente menzionato, però questo ce l'aspettavamo, non ci sorprende. Dunque sarà a noi da domani continuare, anzi forse con una voce un po' più grossa, perché non vorrei che, c'è da evitare un po' di, come si dice, di soddisfazione che è arrivata questa sentenza, che accontenta indubbiamente, richiamiamola così, l'opinione pubblica tra virgolette, faccia minimamente mollare l'attenzione, che già non è grandissima, che però c'è stata finora, l'attenzione nei confronti della sentenza della settimana prossima, perché poi il 13 sono semplicemente tra 8 giorni, ossia appunto venerdì prossimo. Di conseguenza questo è l'unico rischio che può portare questa sentenza, è oggettiva come cosa. Io ora magari provo un attimo con Carlo, andare un attimo in diretta anche con Carlo, che è anche l'autore, dopo anni di lavoro all'interno della segreteria legale, è anche l'autore del documentario Black Bloc, uno di quelli che la storia della Diaz la conosce molto bene. Pronto? Eccomi qua, ciao Carlo, Radio Onda Rossa. Ciao. Allora, anche tu lì, insomma, a commentare, tu appunto, come diceva Fabrizio, una questione che conosci molto bene, insomma, che hai studiato, che hai, diciamo così, elaborato e lavorato, qual è i tuoi pensieri adesso? Ma di soddisfazione rispetto a un lavoro fatto, seguito insieme a molte parti offese, agli avvocati in tutti questi anni, al lavoro che ha fatto la Procura di Genova nella persona di Zucca e Cardona, che hanno voluto con determinatezza questo, cioè, processo di primo grado, e attraverso questo poi anche l'appello e infine la Cassazione. Per me questo è un risultato rispetto a questo lavoro che ha, come dire, ricostruito una responsabilità di tutti coloro che sono stati al processo, dunque di tutti coloro che parteciparono a questo blitz alla scuola di ed è un risultato politico importante perché abbiamo funzionari di massimo livello della polizia attuale che sono stati condannati per falso, e questo sarà un qualcosa che non si discute più attraverso le aule giudiziarie ma sarà parte della discussione politica delle prossime giornate. Noi abbiamo oggi funzionari di altissimo livello che hanno una condanna per falso relativamente ai fatti del G8, che è, come dire, impegnativa rispetto al ruolo che svolgono, non solo a quello che hanno svolto in tutti questi anni. Sì, questo sicuramente appunto non è un dettaglio, diciamo, appunto forse era quello che non ci aspettavamo, no? Un po' da questa sentenza, alcuni di noi forse non se l'aspettavano. Beh, non se l'aspettavano perché, come tutti i processi sul G8, sono anche processi politici, dunque la sentenza, la parola finale rispetto alle responsabilità penali, soprattutto di persone che, come dire, hanno un ruolo pubblico, sono pubblici ufficiali di altissimo livello, non sono privati cittadini, certo che hai, come dire, un'attesa per forza importante rispetto all'esito della sentenza, perché te lo sei vissuto come non solo un processo penale ma anche un percorso attraverso il quale come dire, ricordare Genova e anche capire politicamente come alcune cose sono state non solo gestite in quelle giornate ma soprattutto come hanno continuato ad essere gestite in questi anni. Va bene, io ti ringrazio e poi immagino che comunque a caldo adesso con un attimo poi potremo anche continuare a parlare, anche perché di Genova comunque si continuerà a parlare. Certo. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Buon lavoro. Eccoci di nuovo, sì. Allora, diciamo che con i commenti abbiamo per ora terminato, poi ovviamente ci torneremo anche più tardi, ci torneremo nei prossimi giorni. Stavamo appunto anche ragionando con alcune persone come noi da questa sera, come ripartiamo la nostra campagna, perché esatto, il rischio ci sia che ci sia un appagamento da parte di molte delle persone che hanno sostenuto questa campagna, ma allo stesso tempo qui il discorso è abbastanza semplice. La sentenza Diaz ha dimostrato quello che noi abbiamo anche raccontato in questi anni. La sentenza Diaz, la maggior parte delle persone sono state accusate di falso, e questo vuol dire che anche per quanto riguarda il nostro processo tutto l'impianto accusatorio si basa, noi lo raccontavamo, forse adesso abbiamo un po' più di forza, si basa sugli stessi falsi raccontati dalle forze dell'ordine per quanto riguarda arresti, incriminazioni e via dicendo, che hanno poi portato alla costruzione del tutto attorno al reato di devastazione e saccheggio. Dovremmo cercare di ripartire da questo. La polizia continua a perdere, ultimamente ha perso un po' di processi, il che vuol dire che c'è un problema in questo paese. Noi lo sappiamo, qualcun altro forse se ne sta accorgendo adesso, proprio dal racconto del falso, forse dovremmo, proprio dalle accuse, dalle incriminazioni che questo processo dovrebbero dare anche il senso della portata di quello che succederà tra 8 giorni.